vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.27 e tramonterà alle 19.47. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Diversa tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, riprende dopo la pausa estiva Vita nei Campi, che ormai da oltre 50 anni vi parla di tutto quanto fa agricoltura e agroalimentari in Friuli Venezia Giulia. In apertura un servizio che parla di noi, o meglio di una delle nostre firme, Enos Costantini, che ha raccolto in un volume tutti i suoi corsivi domenicali scritti per la nostra trasmissione. 6 anni di contributi che compendiano il Costantini pensiero in fatto di agricoltura, che nel servizio ci viene analizzato dal professor Francesco Micelli, uno dei massimi esperti di territorio e paesaggio friulani. A seguire un piccolo glossario per districarsi nel mondo sempre più variegato delle sementi. E arriviamo così alla New Entry, una rubrica che quest'anno si occuperà del vino, del fare il vino, dei suoi segreti e particolarità legate al Friuli Venezia Giulia. Ritorna poi lo spazio che dedichiamo alle piante, alle loro caratteristiche e proprietà, oggi è di scena il rovo. A seguire una nuova rubrica dedicata al maiale, alla sua storia e ai suoi prodotti tipici, a quanto e come abbia caratterizzato l'allevamento e il mangiare delle nostre terre. Persiste la rubrica della gastronomia, con un abbinamento a dire il vero ardito tra vino, formaggio e cioccolata. Come di consueto, in chiusura l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Per questa prima puntata della nuova serie di Vita nei Campi permetteteci di parlare anche di noi, o meglio di una delle nostre firme eccellenti, Enos Costantini, che ha deciso di pubblicare i suoi corsivi domenicali. Li ha raccolti in un libro che verrà presentato mercoledì prossimo a Palazzo Belgrado alle 18.30, libro che ha intitolato Cevitis Taitiams, facendo un pochettino il verso anche al titolo della nostra trasmissione. Vogliamo parlare di questo libro con il professor Francesco Micelli, già docente universitario di geografia e uno dei massimi esperti del territorio friulano, un territorio che ha sempre avuto a che fare con l'agricoltura. Questo libro ha 3 momenti straordinari. Il primo mi riguarda personalmente, un amarcord. Mi ricordo l'orto meraviglioso di mia nonna, dove nasceva tutto, qualsiasi cosa, e che era stato ricavato dalle grave del Fella. E poi il gallinaio, pieno di galline e di uova sempre fresche. Poi il passaggio a Udine, la guerra tra il burro e la margarina, che io rifiutai decisamente con sdegno, quasi degno di Costantini. Il terzo momento, la fine della polenta. Quando mangiai la polenta fatta con gli ibridi, io rinunciai per sempre a mangiarla. Ma il punto di Costantini è un altro, è la sua proiezione verso il futuro, la sua coscienza della nostra situazione. E ci sono 2 momenti inquietanti. Il primo momento più inquietante in assoluto è l'assuefazione al brutto. Per capire la decadenza della nostra sensibilità è sufficiente partire da Udine e andare a Collalto, passando per Tricesimo. Non è possibile tanta bruttura, la deturpazione di uno dei paesaggi agrari per me più affascinanti a livello nazionale. Il secondo momento profondamente inquietante è quando dice Udine, capoluogo di cosa? Capoluogo di dove? Questi 2 momenti però vengono associati nel mio caso di questo libro, che io considero parte della mia stessa memoria. Tutti i libri intelligenti sembra di averli già pensati. Il libro che non è solo Enos Costantini. Ci sono alcune ombre che lo accompagnano. Uno è Riccardo Querini, che ha difeso il Canal del Ferro, tra l'altro, dal quale era nato a Moggio. Il secondo, la novella Cantarutti, che qui viene ripresa, citata, come quella che del territorio e della vita individuale faceva una cosa soltanto. E il terzo, che anche qui viene riportato, citato, o che era parte delle amicizie, che è Giorgio Ferigo. Cito queste persone per dire che ci sarebbe un'alternativa e anche una proposta di carattere generalmente politico, la richiesta di autonomia del Friuli terra agricola, in confronto a Trieste, che invece sarà un grande porto. Professore, secondo lei questo libro è un libro per vecchi o per giovani? Questo libro è un libro fatto per chi guarda al futuro, perché questo è Enos Costantini che esercita la sua virtù critica e il suo scetticismo. In fondo pensa che qualcosa della vecchia cultura, della vecchia intelligenza, della capacità critica di fronte a quella che viene proposta talvolta come scienza, e scienza indubbiamente per tal motivo non è, possa riprendere il sopravvento e possa riprendere energia in una forma di autonomia che, se devo dire una frase, che a me ricorda un sindaco di Udine, che è Sergio Cecotti ovviamente, che ha questa sensibilità e questa intelligenza. In agricoltura sta cambiando anche il lessico, si usano a torto o ragione termini che poi non hanno sempre corrispondenza con la realtà. Oggi Cristina Micheloni fa il punto di questa situazione che ha bisogno, sinceramente, di chiarezza. Si parla di vecchie varietà, di grani antichi, di miscugli senza in realtà capire bene cosa ci sia dietro. Una varietà di linea pura, sono le varietà che normalmente si comprano quando si va a comprare la semente di quello che vogliamo seminare. È composta da individui omozigoti, quindi geneticamente identici, che non vuol dire che siano identici poi anche nella loro espressione in campo, quindi possono differire in maniera abbastanza limitata. Per quanto riguarda poi questo, le varietà di linea pura sono quelle che si utilizzano per le specie autogame, il frumento, l'orzo, la soia. Per le allogame, mais e pomodoro, per dirne due come esempio, di solito due linee pure vengono combinate, vengono incrociate per formare degli ibridi di prima generazione, che sono quelli le cui sementi vengono comperate. Chiaramente io posso riprodurre in azienda, se è una varietà di linea pura posso riprodurla, non avrà una grande variabilità, perderà un po' di caratteristiche, ma rimane. L'ibrido non so cosa succederà, quindi posso seminarlo, ma non so se nasce, e quello che nasce non so cosa sarà. Poi ci sono le varietà locali o vecchie varietà. Sono popolazioni eterogenee, quindi sono composte da individui diversi fra loro, come le popolazioni umane, quindi c'è un po' di tutto, si assomigliano moltissimo ma non sono identiche. Negli anni si sono evolute localmente e sono spesso state selezionate tramite selezione massale, quindi qualcuno che andava in campo e sceglieva le caratteristiche che però mantengono un buon grado di diversità al loro interno e possono continuare ad evolvere. Quindi se io le raccolgo e le risemino non continuo ad avere la cosa identica all'anno precedente, ma ho una continua evoluzione. Poi ci sono i miscugli veri e propri, in cui il contadino può prendere due, tre, più popolazioni, più varietà, mescolarle e seminarle tutte assieme. Chiaramente questa mescolanza ha un fine, anche storicamente è stata fatta, perché alcune vecchie varietà, non tutte le vecchie varietà, sono perfette e belle sia agronomicamente che qualitativamente. Quindi per ovviare alcuni aspetti negativi delle vecchie varietà si è cominciato a mescolarle fra di loro in modo da avere una cosa che nel suo insieme andava meglio. Anche queste si possono riseminare. Infine le popolazioni composite, che sono il risultato di incroci di parentali a due, che però vengono fatti dai ricercatori, non in campo. È un lavorone, è un grosso lavoro che ti dà una grande biodiversità che può esprimersi al meglio poi nella risemina negli anni. Queste sono quelle che stanno girando per il Friuli sotto il nome di miscuglio Soliba o miscuglio Ceccarelli. Sono delle composite che hanno dietro un lavoro dei genetisti molto molto importante. Invece per fare la diversità sull'etichetta, chiamarlo per esempio grano antico, basta nuovo grafico e ce l'abbiamo fatta. Prima new entry per la nuova serie di Vita nei Campi, una trasmissione dedicata al vino, una serie di puntate che ci curerà il professore Roberto Zironi, che all'Università di Udine insegna enologia. Professore, lei ci accompagnerà nella creazione, nella formazione, nella anche ideazione del vino. Quando stiamo producendo un vino, chiaramente siamo all'interno di un territorio, di una zona che è conosciuta per la produzione del vino. Quindi il primo punto di partenza che dobbiamo prendere in considerazione è proprio che vino vogliamo ottenere, che vino possiamo ottenere, che qualificazione vogliamo dare a questo vino. Quindi questo è un pochino la prima fase progettuale. Dopodiché ci sono delle aziende che vogliono distinguersi anche all'interno dei territori e quindi vogliono magari delle individualità, delle particolarità, e quindi conseguentemente con le uve di quel territorio produrre qualcosa di originale, qualcosa di nuovo, qualcosa di esclusivo. In tutti i casi, sia che vogliamo stare quindi a esprimere un territorio, sia che vogliamo dare un'impronta personale, particolare al vino, chiaramente non possiamo prescindere dalle potenzialità della materia prima. Cioè, qual è l'uva che abbiamo a disposizione? Che caratteristiche ha questa uva? La qualità del vino sta scritta nella qualità della materia prima, nella qualità dell'uva, nelle caratteristiche dell'uva. Cioè, non possiamo, come qualcuno pensa, produrre da un'uva qualsiasi vino. Ci farà anche un po' di storia dell'enologia, di come in questo territorio, come diceva poc'anzi, si è intesa questa arte. Certamente, anche perché diciamo che i documenti storici, o se vogliamo quello che ci danno gli archeologi, datano sicuramente la vinificazione da qualche migliaio prima della nascita di Cristo, per cui c'è una lunga storia da raccontare. E oggi molto spesso andiamo ad esprimere con degli strumenti moderni quella che è questa lunga storia, dove di fatto, se vogliamo proprio molto molto semplicemente sintetizzare il ciclo produttivo, trova un'uva, si porta diciamo all'interno di uno stabilimento, si ottiene un succo che si fa fermentare. Sembrerebbe molto semplice in questo caso produrre un vino, ma non è così proprio. Non è certo la pianta più amata dalla gente, ma ugualmente una serie di caratteristiche e proprietà che la rendono importante. Oggi Antonino Danelutto ci parla dei rovi. Quante volte durante una camminata in collina o in montagna siamo stati costretti ad aggirare i rovi o addirittura a cambiare direzione? Eppure questi arbusti infestanti, in grado di creare folte barriere spinose impenetrabili, oltre a fornirci in questo periodo i loro gustosi frutti, le more, hanno un ruolo importante nella ricostituzione vegetale dei terreni degradati o abbandonati e offrono rifugio a numerosi animaletti. Abbondano dovunque, nei luoghi ruderali, nelle siepi, nelle boscaglie, e si propagano con molta facilità grazie a stoloni e a rami flessibili che, giunti ad un'altezza di qualche metro, si curvano e ricadono a terra dove radicano. Anche se non è botanicamente corretto, facciamo riferimento genericamente all'aggregato Rubus fruticosus, che raggruppa diverse decine di specie assai simili fra di loro e di difficile identificazione. Il rovo, in friulano barach, barachar, è munito di robusti aculei di varia forma che sono presenti sul fusto, sui piccioli e perfino sulle nervature delle foglie. Queste sono palmate, normalmente a 3-5 foglioline ellittiche o ovate, acuminate, irregolarmente dentate, con la pagina inferiore talvolta bianco-tomentosa. I fiori, bianchi o rosei, danno origine alle more, frutti lucidi e neri, più raramente bruno-rossastri o azzurro-nerastri, costituiti da numerose piccole drupe, ognuna delle quali contiene un piccolo seme rotondo. In cucina si impiegano i germogli raccolti in marzo-aprile. Finemente tagliuzzati, vengono mangiati crudi in insalata, anche se è preferibile consumarli in minestre, frittate e risotti. Con le foglie essiccate si prepara un tè dall'aroma molto delicato. I frutti sono ricchi di zuccheri, pectine, acidi organici, antociani e vitamine, specialmente vitamina C. Con essi si preparano marmellate, confetture, succhi, sciroppi, gelatine, macedonie, gelati, sorbetti e frutta sciroppata. Vengono usati anche sotto grappa, mentre fermentati e distillati forniscono un apprezzato liquore. Il pigmento morina, contenuto nella mora, è un colorante naturale per alimenti. Nella medicina popolare trovano impiego le foglie adulte essiccate. Contengono soprattutto tannini, per cui sono ritenute astringenti, utili nelle dissenterie e nelle infiammazioni di bocca e gola. Le stesse proprietà vengono attribuite anche alle radici. I frutti freschi hanno un'azione tonico-vitaminizzante. Una leggenda narra che Satana, cacciato sulla terra dal paradiso, cadde su di un roveto e, adirato, lo maledisse. Era l'11 ottobre e ogni anno dopo quella data le more diventano disgustose e immangiabili. Questa nuova rubrica di Vita nei Campi potrebbe intitolarsi Mondo Porco. Adriano Del Fabbro, che ce la curerà, il collega che da sempre si occupa di temi dell'agricoltura, invece preferirebbe come titolo quello di Cronache Suine. Sarà un viaggio nell'universo del maiale, dei suoi prodotti, della sua storia. Da dove iniziamo, Adriano? Inizierei da quanto tempo questo animale accompagna il popolo friulano, perché il maiale non c'è solo in Friuli, ma le prime testimonianze parlano, cioè, di un ritrovamento di 10.000 anni avanti Cristo, una specie di maiale, più vicino al cinghiale, naturalmente, eccetera. Quindi, diciamo, sono non decine, non centinaia, ma migliaia di anni che il popolo friulano, questo ritrovamento nella fattispecie nell'area di Cividale, poi sono state trovate anche nelle zone del Medio Friuli, più, diciamo, un po' più recenti, però ecco, da migliaia di anni questo animale accompagna il popolo friulano. Un animale salvavita, possiamo dirlo? Certamente, per tantissimi anni tante famiglie, tante persone vivevano e sopravvivevano, ovviamente anche in determinati periodi purtroppo brutti della storia della nostra regione, e sopravvivevano grazie a diciamo, i frutti, diciamo così, insomma, i figli di questo animale che era molto diffuso, insomma, nelle nostre case, nelle nostre aziende, nelle nostre famiglie. Hai appena citato i frutti, cioè tutte le trasformazioni di questo nobile animale. Nella nostra regione abbiamo qualcosa di particolare, qualcosa di più, oppure, diciamo, è l'universo suino è uguale un po' dappertutto? Beh, un universo suino molto importante, ovviamente non possiamo non citare il prosciutto di San Daniele, il prosciutto di Sauris, che sono anche, diciamo, prodotti di grande eccellenza, ma per una citazione così che ci rende la cosa anche più pratica e più quotidiana, possiamo dire che nella nostra regione ci sono circa 176 prodotti iscritti nell'elenco tradizionale delle produzioni agroalimentari regionali. Di questi circa o più del 20% sono legate al mondo del maiale, quindi una buona percentuale che anche in questo caso ci dice quanto la carne e i derivati del maiale erano e sono importanti per l'alimentazione della popolazione del nostro territorio. Tra due settimane la prima puntata delle Cronache Suine. Avete in casa del gorgonzola, della cioccolata amara e un vino dolce passito? Il nostro Roberto Zottar vi insegna come sposarli. Il vino a volte è in grado di far risaltare una qualità nascosta del cibo, a volte di smorzarne i toni più accesi. La scoperta del mondo del vino è un'avventura affascinante, ma il suo abbinamento con il cibo offre spunti ancora più interessanti, talvolta provocatori e intriganti. Se nel passato l'abbinamento era solo di due tipologie, blanc o neri, oggi piatti semplici e raffinati trovano nel vino l'amico in grado di esaltare al meglio le loro doti. Si sono consolidate due regole di abbinamento vino-cibo, per concordanza o contrapposizione. L'abbinamento per contrapposizione prevede che il vino abbia caratteristiche opposte rispetto al piatto. Viene utilizzato per alimenti che presentano grassezza, untuosità, sapidità, succulenza, tendenza a marognole o acide o dolci. La sapidità si avverte nei formaggi stagionati, la tendenza a marognola negli spinaci, nel radicchio o nella cicoria, quella dolce nelle carote, nelle patate o nel pane, mentre quella acida si avverte nei pomodori e negli agrumi. In questi casi bisogna abbinare un vino morbido che smorzi l'aggressività dei sapori. Se il vino fosse fresco, infatti, la sua acidità farebbe risaltare ancora di più quella del cibo. La grassezza, sensazione tipica del burro freddo o del tuorlo d'uovo, lascia una specie di patina in bocca rendendola pastosa. I vini da abbinare in queste situazioni devono avere caratteristiche di sapidità, acidità o effervescenza. La succulenza sia nel caso di un cibo che induce la salivazione, ad esempio un pecorino stagionato. In questi casi si abbinano vini con alta gradazione alcolica o tannini. Il vino in abbinamento deve asciugare la bocca grazie alla presenza dell'alcol etilico o dei tannini. Nell'abbinamento per concordanza, invece, il vino deve avere le stesse caratteristiche del piatto e in questo caso il gusto della pietanza viene assecondato piuttosto che contrastato. È il caso dei cibi che hanno caratteristiche di dolcezza, aromaticità, speziatura e persistenza. La dolcezza nei dessert o nel miele, l'aromaticità nelle erbe aromatiche, la speziatura nel caso di pepe o zafferano. In questo caso gli abbinamenti vino e cibo sono più semplici, in quanto si useranno vini che richiamano le proprietà del cibo. Saranno quindi dolci, aromatici, speziati o con una persistenza lunga. Vi propongo oggi un abbinamento per contrapposizione, apparentemente provocatorio ma gustoso. Provare per credere. Degustate una tartina di pane con del gorgonzola piccante insieme con scaglie di cioccolato fondente amaro e sorseggiate un buon vino bianco passito, un ramandolo o un piccolit. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ballerino venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,10 e 16,30 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 60-63, si quota tra 15,30 e 15,80. Il frumento tra 16,80 e 17,10. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 80 centesimi e il frumento di 1,90 euro al quintale. Segni di stabilità nel mercato dei bovini a macello, con le vacche che fine carriera, le prime qualità a peso morto, tra 2,45 e 2,95 euro al chilo, IVA esclusa, e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Mercato fiacco invece nel settore dei vitelli da ristallo, con i Bluebell Gamaschi quotati tra 6,40 e 6,80 euro al chilo, IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 1,60 e 2 euro e i bruni tra 1,70 e 1,90. Toni con prezzi in lieve movimento nel settore suinicolo, con il valore degli attonzoli di 30 kg franco partenza fissato a 2,70 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,50. Domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,45 e 5,95 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,80 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Il latte naturale di vacca franco stalla compresa refrigerazione è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 38,50 centesimi il litro più premi qualità IVA. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Ieri è finito il mese di agosto ed anche l'estate meteorologica che si considera dal 1 giugno al 31 agosto. Possiamo fare quindi dei bilanci. Agosto è stato più caldo della norma di circa 2 gradi in pianura, consolidando una tendenza che vede ormai da oltre 10 anni agosto quasi sempre molto più caldo della media climatica, anche se non si è battuto il record del 2003. Interessante notare come la decade più calda sia stata l'ultima. Va detto che ciò ha portato la temperatura del mare a toccare i 28 gradi il giorno 29, record per fine mese. Per quanto riguarda le piogge, dovute essenzialmente a temporali, sono state in genere nella norma sui monti, pedemontana e carso, inferiori su media, bassa pianura e costa. I temporali sono stati per lo più locali, per cui la piovosità cambia anche sostanzialmente da zona a zona. Ricordiamo comunque l'episodio più significativo della zona di Tricesimo del giorno 8, con 90 mm caduti in mezz'ora, un vero record per la nostra regione. Se si considera l'intera estate, quella di quest'anno è la seconda più calda dopo quella del 2003, con una temperatura media in genere 2 gradi oltre la norma. Il mese più caldo in pianura è stato giugno con 25 gradi di media, seguito con mezzo grado in meno da luglio e agosto. La temperatura più alta si è raggiunta a fine giugno con picchi tra 37 e 38 gradi in pianura, che hanno eguagliato il record mensile. Il numero di giorni con massime oltre i 30 gradi è di circa 60 contro i 30 che si avevano il secolo scorso. Giugno e luglio sono stati in genere più secchi della norma, specie giugno. Oggi inizia l'autunno meteorologico, anche se ciò può destare ironia, data la giornata che rischia di insidiare il record di temperatura massima assoluto di settembre, che è di 34-35 gradi in pianura, a seconda della zona del 2016. Comunque qualcosa sta cambiando. Domani un fronte atlantico determinerà dei temporali sparsi del pomeriggio sera, anche se la giornata sarà ancora afosa. Poi martedì afferrà finalmente vento fresco di bora che farà scendere le temperature ed anche l'umidità. La giornata sarà variabile con ampie schiarite nel pomeriggio. Mercoledì avremo una splendida giornata con aria secca e temperature massime sui 28 gradi su pianura e costa. In seguito altri fronti dal nord atlantico faranno scendere la temperatura ancora di qualche grado nel fine settimana, in un contesto di tempo incerto in cui saranno possibili temporali. Come sempre, a maggior ragione, visto soprattutto che iniziano le vendemmie, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente lo Smerart elabora e che vengono diffuse anche dai notiziari radio regionali della RAI, nonché rese disponibili su internet con la telefonia mobile e tramite gli altri canali informativi. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Sant'Egidio ti dirà, c'è color che est mes varà, ovvero dal giorno di Sant'Egidio, il 1 settembre, si può capire il colore, l'andamento meteo del mese di settembre. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.